quindi la luce ogni 10 metri, 28, per fare attività mattoriale, anche attorno alle 27. Ma stavo aspettando questa risposta, siccome c'è un'ora, quanto ho avvisato meglio. 79,50. Guarda che il 27 non se ne possono usare le direttive, E tu non ti preoccupare, io l'ho presa perché mi fai 10 metri e 12 metri. Tu non ti preoccupare, io sono la rivolta e la uso per i 10 metri, tu di volta mi che la sto usando in 11 metri. Io sto scherzando, cazzo, non si può più scherzare con te. Io. No, ma chi è che scherzava? Ma ti sei già la verità. Tu di volta mi chiamo la posso montare e usare. Questa è la per 10 metri. Tu di volta mi chiamo la uso in 11. L'ho presa a porta quando ho detto 10-11, ma lì fa tutta. La pagaffa, tu lo puoi fare perché al limite te la vedono e ti dicono ma hanno 10 metri. Direttamente poi ognuno dicono a questo mondo siamo in democrazia, fa quello che gli pare piace. Però io ho dato una battutina così scherzosa, non è che poi a me non me ne frega niente. Però per farlo sapere anche agli altri, ossia che si montino la testa, che il 27 si possa usare la direttiva, perché il cartellino lo dice bene chiaro. No, a me guarda, io posso usare le direttive, quindi non ho problemi. Poi chiunque mi dimostra che io sto usando i 12 metri, io l'ho presa perché la devo usare i 10 metri. La piatto, la faccio girare e poi dai 10, gli diamo la mano con anche per gli 11. Ma andrebbe, vabbè, c'è il boom di 2,75 m. Ma di Bavaria di 5 metri, già lo sai cosa di combina, no? No, come quella mi ha dato lei tu? No. Praticamente sono due mura rovesciate con unite praticamente a L, capito? Sono due, si chiama appunto da una... Così perché è fatta, è una delta, capito? Delta loop, praticamente sono due quadrati, anzi due V accoppiate assieme e non posso spiegare, guarda, se tu vai su, non so se c'è più su eBay, comunque ci dovrà essere perché non ti fa entrare, ma te la fa vedere ancora sulla pagina 2 della CB, capito? 70 euro, guarda c'è scritto, aggiudicata a Claudio 45,96 per 71,50 euro. Sabatazza. Oh, mi sono informato come si fa a vendere, mi da un amico. Ma io non lo sto vendendo perché? Oh, io ho due radio in vendita. Ma lo sai come funziona? Allora devi pagare 2,50 euro di tassa fissa. Anche se vendi un apparecchio che costa 1000 euro, 10.000 euro, eccetera, eccetera, tu devi dargli il 3,50% del valore, anche se c'è un apparecchio che costa 50 euro, da 50 euro in su. Sì, mi ha mandato un'email, ho già visto tutto, vabbè, tutto alla grande. Dove devi arrivare con la tenda? Da Trieste. È nuova o già utilizzata? Nuova, non l'ho mai utilizzata, no. Piazzata e messa in fotografia, cioè l'ottore è tutto, delta loop, 10-11 metri, chi se l'abbiate il 28, faccio venire a Marco qua, la piazziamo bene, che giri bene, che non dia fastidio alle altre antenne, e apri di cielo, Marco riesce a fare un po' attività in 10 metri. Anche il rotore per farla funzionare. Tutta completa è. Diciamo l'avrei presa. C'è il rotore della Iagi. Ma poi ci vuole un posizionatore per farla girare, non c'è già il posizionatore. Tutto mi la completa, tutta completa. Capito? Antenna, rotore e vabbè, l'affare che poi faccio girare l'antenna da sotto, nord, est, sud, ovest. Il posizionatore si chiama, dimmi allora, ma c'è una bussola sotto, come fai a capire la posizione? C'è una bussola, sì. Beh certo, c'è il programmatore sotto con che la metti lì e la fai girare. Ah, no, c'è qualcosa, sono 5 fili addirittura, io nell'impianto che ci ho autorizzato, oltre al cavallo, ne sono 5 fili perché c'è il sensore di posizione, i limiti, eccetera, eccetera, sono 5 fili in tutto. Addirittura anche io ho pure il coso, il regolatore degli schi, il polarizzatore della parabola, perché quando ci sposti fuori banda, fuori centro, devi regolare anche l'orientamento della polarizzazione. Nella direttiva, vabbè, questo non è necessario perché si utilizza un altro tipo di sistema, perché noi regoliamo, arriviamo a satellite, tu invece sei in orizzontale, segnale a via. Aia. E poi devo girare, vabbè, l'altra antenna, devo fare l'orizzontale per i 20, 40, 80, e poi ci hanno arrivato, poi due chiacchiere qua, ma per qua se va bene la delta loop già durò. Adesso per fare a Marco domani vediamo cosa mi dice, se c'è modifica da fare, se vediamo se ci vogliono i cuscinetti resi spinta oppure se la monto così, perché sono molto in alto, capito? L'antenna è già un buon 2,75 m lunga, quindi gira 2,75 m, se gira più è alta 1,40 m, fate il conto. È un mostro, ci vede una fotografia molto grande. Gappa, avanti già. E quindi c'è la direttiva, quanto è la giornalità? Sì, mi ha mandato un messaggio adesso, mancavano un paio d'ore. Sono da... non ho letto niente, non so come si riusciva a giudicare, ma sono già 4 giorni a passare questa antenna. Adesso mi ha arrivato un messaggio, siamo la giudicata. 71,50 € più 10 iscritti ho. 12,5 iscrizioni, 12,5 euro, sì, iscrizioni. Il 20 erano con questa antenna, tutti a 50 centesimi, che è proprio gioco al going. Più un euro di me. Maria. No, chi sta in contrassegno? Io la prima cosa che mi sto guardando è che supporto il pay, che se io non lo carico nulla a nessuno, a me mi mandi l'antenna e io te la pago. Questo ci siamo accordati così, in contrassegno. È un animatore questo, quindi io sono un animatore, gli ho dato la mia sigla, si è informato, ho visto tutto, gli ho detto che sono su qrz.com, quindi ha guardato il mio attivo, si è preso l'indirizzo e perciò non ci sono problemi. Contrassegno, non imbargo io porti P, cos'è il porti P? Il porti P. Ciao, mi si d'accordo. Niente porti P, tu mi mandi l'antenna e io ti mando la pila. Sì, questo fa così, ma sulle altre cose non è come dici tu. Gli altri porti P lo accettano e invece contrassegno. Vabbè, si va bene la roba. Io sto gareggiando per due cose, uno per un apparato, ti ho detto. Un superfar 3008 con la scheda di 45 metri, manca ancora 5 giorni, però io con questo ci siamo già messi d'accordo lo stesso, con questo le faccio un bonifico, capito? Appena arriva la roba le faccio un bonifico, ed è sempre contrassegno, vai me, non ci capisci io col positivo, io con questa gente ho paura, capito? Mi fotto i soldi, è un casino. Sono quelle che sono, insomma, eccetera, eccetera. E lui mi ha risposto complimenti per la rimasta nuova di buon brano, ha detto se era possibile lavorare sì, ho detto di no, su il vino di lavorare, ho detto di guardare su corretta.com. Ha guardato su corretta.com, si è informato, ha visto che appartengo anche all'Ari, quindi si informava subito, ma non veniva a sbagliare, capito? E quindi niente. E allora mi ha mandato un'email poco fa, dove mi ha detto che con molta tranquillità e molta sicurezza accetta il contrassegno e buon di ex, mi ha scritto. Ci vogliono 10 centimetri, avanti a 10 centimetri, è lunga che ricordo del mobile, il piano, quanto pesa una cosa del genere? Ah, non pesano molto. Ci saranno, c'è no, il piano. Piccoli. I pesi che ci sono sopra, sono i mission misure. Qui che quei piedi che avete tu, visti come sono. Sotto ci sono i così in ferro attaccati al muro, non è appoggiato vicino, è più il piantone in legno, li hai visti? Non l'ho visto, basta, non è che l'abbia visto, la costruzione non l'ho visto, ho visto soltanto, diciamo, a prima vista, dai. C'è il peso qua, c'è il 902 VM che pesa solo 18 kg, poi c'è la linea unica che pesa 18 kg, c'è il ricevitore, altre tre radio, più 920, più e altro di subito qua sopra. E comunque vediamo un po' caromati, vediamo. No, io ho messo un po' di radio, ma radio non me ne facevo niente, così mi riesco a prendere questa linea Collins. È favoloso, è un sogno grande grande. Io quando c'è solo un radioamatore sardo che possiede queste cose. Ed è il carissimo Raffaele Di Tempio, che ha 74, mi pare 75 anni, uno dei più bravi operatori radio che abbiamo in Sardegna, ha queste linee favolose, grandissimo, attore, c'è un garage pieno di queste linee, e non le dà neanche se ti ammazzi, manco se le offri 100.000 euro per le dà. Ah no, allora non stiamo dicendo questa parata, era già 1,50 quando l'ho visto io, però caleva, mi sembra oggi, se non sbaglio. Devo controllare adesso, guarda, è vero, c'è il lancio, perché se no Claudio me lo fa. Ma c'è anche un orologio, mi pare, o sbaglio già? No, non è quello con l'orologio, perché c'è uno con l'orologio e uno senza. Gianni 95 e 68. sei tu. Thank you. normali, ma ce ne sono completamente diversi da quelli che conosciamo noi. Vabbè, americano già la città. Sì, ma dico, se tu li guardi, sono totalmente diversi dal Saturno, ce ne sono una marea di varianti. Io ho scritto Galaxy Saturno, tu ce ne sono un sacco di varianti, più bassi, più lunghi, più stretti, più alti, tutti voi. Lo so, lo so. C'è addirittura una versione lusso proprio, non mi ricordo come si chiama, che è ancora migliore del Saturno, c'è tre manopole dorate, turbo, mi pare che si chiama una cosa del Saturno turbo. C'era uno che aveva gli strumenti digitali, tu l'ho visto con tutti i display, come si chiama, il libro di Tavera della Lancetta, c'era il libro di Luminosi. Allora più basso, molto più basso del Saturno, quello diciamo il solito Saturno messo. Guarda, io ti dico una cosa, gli analogici sono eccezionali, però per i picchi ci vuole anche la lucetta. Sono dimostrato perché io quando facciamo le registrazioni non è così veloce la risposta di quello analogico rispetto a quello a lucetta. Cioè l'idea di averle tutti e due, io sono un ulteriore registratore a bombina, che c'ha i picchi te li dà con LED e poi con l'analogico ti dà la modulazione. Grazie. preso quanti io prima. Io mando al quadrato del parcheggio delle Querci. Sì, ma ne fa momento. Mettevo un SSB, un SSB a tutto volume e via. E mi facevo i 10. Anche con l'Inghilterra da lì ho fatto tranquillamente. Ah, fatta fa. Ah, poi quello dei Galaxy c'ha anche il regolatore di potenza o sbaglio. Sì, c'è la potenza regolabile. Mi pare che passa da 1 a 15 watt da M e da 1 forse a 30 watt o 25 in banda laterale. Sì, ma te lo fa in continuo o a scatti, per dire? Come cambia il canale nel barattino, oppure te lo puoi fare vedere anche 2 watt, 3 watt, piano piano come per esempio tengo lì il rotolo, leggero leggero la regolazione. Piano piano se lo metti a lavorare con un watt, vuol dire che bisogna cioè, di utilizzare tutta la potenza. Poi ma la notte prima si facevano certe gare, caro mio, invece di abbassare di aumentare le potenze, praticamente qua. Guarda, io sono contrario a questa cosa, perché è successo nella radio privata questo problema delle potenze. Io da con 10 watt sparavi a bomba, arrivavi. Io piano piano uno poi da 10 passa da 50, da 50 a 100, da 100 a 400, alla fine per cercare di arrivare dove arrivare anche tu, utilizzare quelle potenze. Così sta facendo nei baracchi che secondo me se tutti ci potesse essere la gente di utilizzare il più basso possibile la potenza sarebbe molto meglio. Siamo in un'area a quanto 3 km diciamo. Comunque, veramente io penso che se tu metti un watt arrivi lo stesso bene, che bisogna cercare di arrivare allo stesso modo utilizzando 10 watt o 20 watt o quello che se siamo vicini. Se invece devo parlare con portatore per farmi ascoltare la necessità di 5 watt o di 10 watt sono d'accordo, ma per parlare come stiamo parlando noi, cosa c'è da qui? Quello sì. Infatti adesso è 5. L'altra notte, diciamo qualche notte fa, la settimana scorsa, ho fatto la prova con voi, con il portatile, ho messo un watt e arrivavo, non dico come con 5 o con 4 watt che uscivo, però mi ascoltavate bene lo stesso. E cosa mi raccontiamo? Sì, c'è combinato nel motore che c'è stato con un watt, per la benissimo. Scusa, non ho capito. C'è Antonio Monteoro che usciva con un watt e lo sentivo benissimo. Lo sai la RAI, i trasmettitori della RAI di Monteoro, lo sai con quanti watt esce? Oh? Il trasmettitore FM della RAI, il canale RAI 1, RAI 2, RAI 3 della RAI in FM, lo sai con quanti watt esce? No, lo so. 10 watt. Lo so, ma c'erano le trasmettitori, no? Non lo so, parlo dalla postazione di Monteoro, dove ci sono altre stazioni radio che utilizzano, c'era per dire, Mondo Radio. All'inizio adesso ha diminuito la potenza, utilizzava 1800 watt, più o meno nella stessa posizione, stava a 50 metri di distanza dal traliccio. Comunque la radio ne ha bisogno di potenza, perché se non si sposta deve sentire la tutte le parti, quindi comunque se passa per sconforto anche lì fa una massa. Allora il problema, io lo dico sempre, a me non me ne sono accorto io quando ne facevamo gli esperimenti, no? Chi conta è l'antenna, tu per avere 2000 watt però se un'antenna non rende, la RAI ha delle antenne eccezionali che hanno una resa allucinante, i radio hanno su 360 gradi e fino a un punto con pochi watt hanno un guadagno allucinante, altri usano ancora tutti i piulli, vuol dire il piulo sparà in profondità però nei lati non sparà niente, la RAI ha i pannelli radianti, c'ha una resa allucinante. Così a livello di divertimento. Abbiamo iniziato con un giocattolino tutto autocostruito, poi piano piano ci siamo un po' evoluti, poi alla fine quando abbiamo buttato un sacco di soldi con apparati autocostruiti ci siamo resi conto che se non confidavamo e abbiamo preso un paio un po' più evoluti, non c'erano ancora visto gli apparati. Ma c'era anche guadagno, faceva solo così per farci. No, io assolutamente no. abbiamo fatto soltanto a livello di divertimento, per farci sentire, dai, mandare un po' di musica, eccetera, eccetera. Poi è arrivato a un certo punto, non convengato, perché poi ci sono tutti i diritti, devi pagare tasse e contrattazioni, alla fine di più facciamo spendendo e niente di guadagno. Ognuno di noi ci aveva il lavoro pronto, dice, come fai? L'abbiamo abbandonato per questo. Sì, mi è rimasto, va bene, il pilota, il traduttore del pilota, cioè i finali, quelli della TV. Come diciamo computer. Facciamo intanto, prendi la radio e si vede se funziona bene. Mi auguro di sì, mi tocco le spalle. Mi prendi Alessio. Tu non conosci quello che c'è con la radio di quartiere? Sì. No, ma Alessio sto dicendo, non conosci quello che è la radio di quartiere? Non rispondi, no. Sarà succedendo la birra. Vabbè, riprendi qua. Ma penso la come cosa prima su già. Io con 800 euro ti ho preso. titoli ce l'ho preso, una radio 4 volte superiore a quella, ma 4 volte non può, 4 volte superiore, ma te lo scrivo pure, lo dice a chiunque, che Claudio Fabio ti ha detto così, o ISZ, BFB ti ha detto così, per capirci, capito? 4 volte superiore, perché quello che ha 850 e 450 ce lo sogna, per 200 euro in più però, ma 4 volte superiore di potenza, di tutto quello che vuoi, cioè c'è una bici, come la 500 è una Mercedes, 450 non è un dittato, non è un digitale, capito? È un analogico camuffato digitale, perché non ha niente di digitale, manco la scheda si può inserire il digitale. È un 440 con il display digitale, ma sono display già digitale, e i filtri, perché si possono inserire filtri stretti e larghi, ma uno va altro. Digitale intendo DSP, hai capito? Non io devo andare il DSP. digitale all'interno. Elettronico comandato, un computer, non lo guardo fin qua, è troppo Luca. Con la radio, chi lo compra 500 euro, vuol dire che è un bagnato imbecille. Quindi fosse 2000, siamo ancora intorno ai 1500 euro, 1400 euro, quindi se vuole buttare via quattrini per poi non usare la radio, è un altro discorso. Yeah. di nome, ma non rilascerò molto. Se ti interessa, Federico, perché tanto non ce la faccio a rilasciare di più. Ma di mobilità. Dimmi, c'è anche una puntata da massaggio. di 291 euro. No, io preferisco le donne. Ma io voglio vedere il se mi dai che tu me lo fai. Allora, zio. E guarda, c'è con la porta. Informati. Ah, ecco, informati. Con cosa ne fai, per carità? E tu cosa ne fai? Che fattivo ne ho? La massa che te ne varia. Guarda che ti devo fare le lapide con quello. Beh, signori, sono già a dare la benedizione. Vi saluto perché tanto l'antenna sta facendo capricci, quindi non riesco a ascoltarvi. Sentiamo magari, non so, la prossima volta in migliori condizioni, se Dio vuole. Ciao, bene Antonio, ciao Claudio, ciao Gianni, Mario e gli eventuali ascoltori. Ciao a tutti, Antonio, a te e Mike. Ehi, ciao, ci siamo con quelle T. Quando vuoi, se sto parlando la dimmelo, facciamo una collabora per tutti e due. Tu a me, io a te. Non facciamo un triangolo, naturalmente. Spieghiamo ci l'antenna. Però non è una quarantella, quindi devo aspettare un pochino e vedere un po' anche quando mi arriva il tempo in che condizioni è. Quindi ci passerà un po' di tempo. Va. Ciao a te, salutoni, buon corretti. Comunque stavo scherzando, io ero lì a fare il QRT. Comunque se stai andando via, buonanotte e buona giornata per domani. Là, ce la riascoltiamo alle prossime. Ciao, Mario, no, non ti preoccupare, no, sono entrato giusto perché avevo la parola spegnere, acceso, lo volevo spegnere, ho visto che ce l'ha fatta e sono andato a salutarvi. No, già non è che mi fanno perché l'hai detto, non ti preoccupare. Gappa, ma riprendi Gianni. Ok, ciao a te, scendiamo. Cosa riprendo? Non so cosa dirti. Che ho sempre, ci sono degli apparecchi, mi stanno prendendo di brutto, è una droga che si muove. Non te lo fai prendere di brutto, mi. Guarda come si è incasinato Claudio, poverino, cazzo, 120 euro, un baracchino. 240.000 lire manni. Non è già risposto, compro subito 80 euro, vai. Ok. 80 euro? Sì. Mario, vai, mi luce, questo è un 3.900, 3.900. biciclette, non mi interessa, ma è scritto ok. Comunque che me ne rompo un po' l'apparecchio. Io guarda quello che ha su questo calmario, quello che si riempie, solo che poi c'è la maschera nera. Il tuo è metallizzato, però siamo uguali, poi si riempie, c'è anche la scheda qui, è uguale a quella che sei ceduto tu. Ma magari il cugino del tuo è quello, me. E vabbè, il mio era tutto quanto nero. E nella mascherina il mio non ci aveva scritto 2009, ma ci aveva scritto Lafayette. Poi a me me l'avevano dato così e non lo so, davvero. E comunque c'era lo stesso, anche lì la scheda di 45 minuti. E gliel'ho detto a Claudio, non credere che io le cose me le nascondo qui. Tanto te ne nascondi, poi la gente lo viene a sapere ugualmente, perché bene o male le cose si sanno. Ascolta, c'è tornato, quella è del commutatore. Ma non avevo messo tanto sito, c'è una resistenza. Roger, ma che ha fatto a bruciare? Allora, qui, ha durato 3 dì e si è trovato a bruciare. Che ne so io. Vabbè, non me ne fatto niente, l'ho messo sopra e c'è sotto, acceso il freno. Oramai già ho capito come funziona. Di lusso, meno male che... Comunque è facilissimo, basta rispondere subito, metterti in contatto col venditore, ci metti in contatto col venditore, sono in contatto e mi ha risposto subito. Ho scritto 2 righe già, tutto a posto. Ho fatto io col microfono originale, che ha la documentazione originale, addirittura c'è la scatola, lo schema elettrico e la nuova istruzione. Quindi credo che sia nuovo. Se è quello, non te ne pinti, stai tranquillo. Chi c'è la tenuta? È rimasto solamente un mio in piedi a stare. Andiamo lì come te lo dico, dove c'era lui in macchina, che guarda come ti hanno tu, si era bruciato. Infatti è stato per una settimana a pianta. Sì, adesso per arriva, lo mettiamo subito sotto a vedere come esce. Col bippi, mettiamo il bippi e lo facciamo funzionare. Vabbè, oggi trovando chi? Stava entrando la pantera, mi ha visto scrivendo, dice cos'è? Chi è quel signore? Chi è un amico? Sto facendo la letterina per carnevale, barba di. Per ordinare i frittelli lì. Se vuoi frittare Claudio, dice vi stasera, lo vicino a casa tua. Come? Non si può parlare. Ciao. Ciao. Ciao, buonanotte. A curire. Comunque, diciamo che in linea di massima sono qua. proposte, sì, Claudio, qui ce ne sono due, c'è anche un altro, non mi ricordo che cosa sia, se sia il 2009 o il 2006 o quale sia, però ce ne sono due o tre. Sta venendo avanti e così che gli serve. per aiutarci nelle ricerche, boh. Mia figlia mi fa il compito di fare le ricerche qua a scuola, tutte queste cose qua. Ah, ci sono tante cose, non è difficile, però piano. Oh, magari se mi metto ci riesco anche io, non è quello, no. È che a me non è che me ne preghi più di niente, capito? Io mi serve qualcosa, parlo con te, parlo con quello, perché sapere, e ti dico, fa favore, guarda com'è. Al limite, capito, non è quello lì il problema. Quello sì, però è bello vederli, sceglierli, queste cose qua. Perché se tu lo dici a me, ti dico sì, c'è questo affare che proprio non lo vedo, non sai come, sei graffiato, invece quando c'è il computer, te li ingrandisci l'immagine, controlli questi dati, vedi se è graffiato, se non è graffiato. Kappa kappa. Oh, è arrivato il mio gringhellino, Adesso andiamo a caricare. Com'è il tuo lato? Ma allora? Allora è giusto oggi. Ehi, lascialo fare. Ehi, così tu c'hai la nipotina. No, è troppo presto ancora. Sto scherzando, va, fine. E così a favore con te la compagnia, no? Stanotte non vuoi dormire. Sì, ma gli atti sciugli, bravo. Se ti vedono i puntino gli atti sciugli. Ma non è che è quello lì, il problema non è quello. E io già li chiuso tutti qua dentro le camere e mi porto i cusi, come facevamo nelle sale da ballo, i cartoni delle uova, solo chiamare vasini di plastica. Allora, poi mamma mia, le cose di lui, ma fa le insonorizzazioni. E chi non me la metto? Sale 3 giambellini c'erano, la saletta che c'è lì con San Leonardo, quella della saletta, lo zumbino. Kappa, e lì c'era pure il messicano, poi c'era quell'altro che era più giù, davvero, che c'entrava dentro il cortile. E ce n'erano di belle sale lì via Pietro Micca, ma davvero, va bene, ma solo sì, un franco ancora c'è. No, franco, come stavo dicendo, c'è Alessia, c'è, Alessia sì, no, Alessia non c'è, questa faccia non va, te la ricordi quella che c'era in quella traversa di non me la ricordo, però ce n'era una in via San Donato, come entravi da Corso Trinità, c'era i quattro muri, poi c'era quell'altra di Gianni Gabbevanno, più avanti, poi ce n'era una in via San Sisto, c'era, no, due lì ce n'era, c'era il Bandiera Gialla, diciamo amici, poi al corso c'era la Mandria, giù dove c'è ora il coso di Peppina, la rosticceria di Peppina. Io già le giravo già. E tu Lucas Club l'hai conosciuto, quello che c'era la ruota dentro, che era a Gioscari. Guarda che c'era? A Gioscari, località Gioscari, lo sai dove? Io non so già, la scalina dove c'è l'uscita di via l'Italia per pigliare il 131. Dietro di Pomo, già, quella traversa che c'è dietro di Pomo, ma se no. E lì era una strada prima, l'hanno fatta discoteca, e si chiamava Lucas Club, perché parla si chiamava Lucas. E si chiama Lucas Club, era bellissima quella sala, ma bella, grande. C'era tutto gli spogliatoi e la camera con i letti. Ah, pure lo scambio c'era. E dove mettevo tutti i vestiti, era, no? Però qualcosa si moscava. Era praticamente prima una sala, poi l'hanno fatta la terrazza, troppo, no. A me mi avevano invitato ad andare all'Atrium quando l'avevano inaugurato, però non ci sono mai andato. Comprometterti fa cosa, fa guadagnare 50 euro, lascia perdere, state capisano, quello lì è cosa che devono fare i giovani, è vero, io mi ricordo anni fa, ma non, me l'hanno raccontato, io non l'ho visto, desiderare costruire un euro, c'è nel curino un gruppo che andava a vendere un buttafuori, se credi a chi era grosso che non ti viene, sarebbe fumare una greppa di pensieri e ci hai bisogno. Ma non so, ma lui dice se come qui tu si toglie la pistola, ti spara, ma oh, già è successo, non è che sia. Kappa. Va già, ci sentiamo. Ma tu la mattina che ora parti? Alle 8:09 di solità. A quell'ora io sono già uscito da casa. Già ci facevo compagnia per un pezzo con l'apparato. Invece niente, esco prima di te. Vabbè già, io vado a carico e mi ci curico. Niente, se ti vuoi trattenere 10 minuti, tanto di mangiare un boccone, se no tutte le prossime. Mi. Quindi, ancora 10 minuti mi posso trattenere, non c'è problema. Non c'è problema, mi fumo una sigaretta, non ti dico tu, ma ti dico no? Gianni, sì, cambio.